Pronto? Buona giornata, signora, sono Ariel di Rock FM. Sì. Lei ascolta la radio? No, no, guardi, sto uscendo, non posso perdere tempo, mi dispiace. Allora la salutiamo, stia bene, arrivederci, arrivederci. E anche oggi nella test attitudinale andiamo a scoprire un'altra di quelle piccole chicche legate a doppio nodo a grandi classici della storia del rock. Ci siamo occupati di Baba O'Reilly. Baba O'Reilly, se posso intervenire, vorrei fare la seguente osservazione. Sì. È uno dei pochi brani rock in cui, a parte le canzoni dei Deep Purple, sì, e l'organo, che non è facilissimo da usare, sì, nel rock. E lei lo sa bene. Io ne ho fatte esperienza sì, più che decennale. Viene usato però con una sequencer ed altri strumenti elettronici, però viene usato con una grande maestria. Ma noi parlavamo del titolo, perché proprio Baba O'Reilly? Forse perché amavano i babà e glieli fece conoscere il signor Terry Riley, il grande il compositore babà di Riley. Esatto, il compositore che amava. La risposta è? La risposta è, direi, decisamente sbagliata. E allora forse, come dice, come ipotizzato nell'ipotesi B, Baba O'Reilly Riley è il titolo di una fortunata serie televisiva, un sequel noir? Manco no, po' niente. Si vedeva, si sentiva nell'aria. E allora, no, non ci la siamo. La soluzione esatta non ci è siamo. La C, eccola la C, qua. La terza. Baba è il tributo a Mer Baba e invece Riley è il cognome di Terry Riley, come il ricordava grande, lei stesso. Il grande compositore sì, di area anglosassone. Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Esatto, se non avete indovinato, rimanete in contatto, certo, riprovate la prossima volta, sarete più fortunati. Intanto studiate, aggiungete una nuova informazione, un'altra piccola perla, un nuovo tassello nella vostra, nel vostro mosaico di conoscenze rock. Un pirlino dopo pirlino arriviamo al grande pirlone, eccolo lì. We'll be right back. Rock FM. È qui che spingiamo sull'acceleratore, già alle prime luci della giornata. 8 e 37 minuti primi, qua. Quale miglior modo di iniziare l'ultimo blocco di diretta se non con gli Who? Al grido di il babà spugnosamente rumoroso e rock, ce lo scrive Tanca via SMS. Succederà di tutto anche nell'ultima mezz'ora di pane, burro e rock and roll. La miglior colazione in circolazione, sempre la buona giornata dall'Ariele, basito dalla segnalazione di sembra Cesare, se non ricordo male, da Milano, eccolo qui. Nevica, che bello Milano. Oh, non so da te, ma qui in Piazza della Repubblica non sembra nevichi, però così, tanto per gettare nel panico gli amici che si svegliano orora in quella di Milano, mentre nel corso della puntata già avevamo segnalato neve in quella di Firenze e anche in quel di Genova. Oh. Poi non siamo per il reparto meteorologia, aspettiamo Garavelli, noi di, così della redazione non siamo preparatissimi. È accaduto un bel po' nella puntata numero 2 pane, burro, rock and roll. Abbiamo dato i numeri dell'otto, ve li ridico velocemente per chi se li fosse persi: 22 88 25 9. So che seguite anche per i numeri. E abbiamo un'amica, Marina da Genova, che ha smesso di fumare stamattina alle 6 e ci farà sapere nelle prossime puntate cosa accadrà. Vi abbiamo promesso nella puntata di oggi il reprise dei nostri provini per diventare musicisti rock con la bocca. Abbiamo già il selezionato di quest'oggi, ma voi iscrivetevi al 335 100 7777. Basta scrivere musicista con la bocca sì e prima o poi vi richiamiamo. Fatelo. Man, his mother takes him back. brillante diretta di Pane, Burro e Rock and Roll con l'inconfondibile Roberto Perché Faccia Faro. Sempre vitale, sempre bello essere qui e salutare i nostri radioascoltatori, ma soprattutto le radioascoltatori. Sì, buongiorno. Cos'è sta roba? È il campanello. Spadino, il cos'è? Colpo di scena. E che ci fa il portinaio? È il campanello. Portinaio, cioè, o portiere? Tu come lo chiami? Io lo chiamo portinaio. Portinaio. Io sono indeciso. Io lo chiamo portinaio. Portinaio Peretti. Gentilissimo. Portiere Peretti. Suona. Vogliamo farle. Spadino, buongiorno. Ma sarà successo qualcosa? Buongiorno, Peretti. Buongiorno ragazzi, scusate il disturbo, Prego. Non so che siete in diretta, però è la cosa. Benvenuto, saluti gli ascoltatori. Ben gentile. Ma mi fate diventare rosso. No, ma gli saluti, stia tranquillo. Buongiorno ascoltatori, sono Peretti, sono il portinaio. Sappiate che Peretti è fondamentale per il palazzo di Rock FM, eh? Come lavora lei, Sciur Peretti, glielo dico io. No, non mettetemi in imbarazzo. No, una colonna del condominio, colonna del condominio. Come mai è venuto su? Fin qui. Siete troppo buoni, ragazzi. No, sono venuto solo per dire che mi sembra che Frick abbia. Il signor Frick Antoni ha lasciato il motorino davanti alla portineria tutta la mattina. Imperdonabile, me ne scuso. Sì. Adesso la sposta immediatamente, altrimenti ti svito la scatola cranica e ti mangio il cervello come dessert. Scusate ragazzi, a presto, buona continuazione, ciao. Prego. Ciao. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ben gentile. Aia, Frick l'ha fatto incazzare, sembra. Hai visto che roba, è raddoppiato. Ma è l'incredibile Hulk, aveva gli occhi bianchi con un pallino rosso. È schizofrenia. E le unghie, hai visto, erano dei rostri. Incredibile. Ma è pazzesco. Lei non deve farlo arrabbiare però. Io lo vado a spostare subito col motorino. Le conviene, sì. Immediatamente. Scusa, vado. Ma intanto che vado, però, so già che ci penserò. Sì. Lo devo chiamare portiere o portinaio? Io lo chiamerei portinaio. Portinaio Peretti. Non lo faccio arrabbiare, però, eh? Vado. Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Questa è Pane, Burro e Rock and Roll. Sempre l'Ariele continua, non proseguono i messaggi di solidarietà a Marina, la nostra radioascoltatrice genovese che ha deciso stamane alle 6 del mattino di smettere di fumare, e noi di Pane, Burro e Rock and Roll abbiamo deciso di sponsorizzare questa sua decisione vedendo cosa succederà. Intanto è molto carino perché ci fa sapere al volo che sua sorella Giulia è venuta a sapere della notizia grazie a Rock FM, stava ascoltando anche lei. Quindi c'è solidarietà anche familiare per Marina, resisti. E tantissimi, veramente tanti messaggi di solidarietà da parte di tanti radioascoltatori che hanno passato, insomma, il momento di Marina, che hanno smesso di fumare. Abbiamo anche Alessandro, tra gli altri. L'unica cosa che ti aiuterà è la tua convinzione e la forza di volontà. Non cercare motivazioni o scuse negli altri. Bevi tanta acqua e ti aiuta un casino. Io sono riuscito così. Grazie Alessandro, anche Rosy è contenta. Anche Luca da Firenze. Qui Daniela, anche lei da Genova, 5 anni che ha smesso di fumare, e per farcela ogni tanto mi sparavo un tiro e mi tenevo la sensazione da schifo. Mentre a me l'unica cosa che mi viene da segnalare è un meraviglioso film del quale forse qualche volta vi ho parlato, che è Coffee and Cigarette, però forse Marina è meglio se non lo vedi. C'è uno scambio di battute tra Iggy Pop e Tom Waits che è galattico. Facciamo che poi vediamo come si sviluppa la tua situazione. Se si sviluppa in un certo modo, poi ti faccio la citazione. Intanto, per chi fosse interessato, Coffee and Cigarette, una pellicola veramente gustosissima. Abbiamo il collegamento con Frigo e Rogna, le nostre cavie da esperimento, e poi, come promesso, la possibilità di diventare musicisti rock con la bocca. Pane, burro e rock and roll. Non riesco proprio a rispondere alla due orizzontale. Cosa? Non ti capisco, Frigo. Cosa? La due orizzontale. Sto facendo le parole crociate. Ah, beh, semplice. E com'è la domanda? Lascia stare, Rogna, tanto non la sai. Ma dai, tu prova, dai. Allora, dove fu firmata la dichiarazione di indipendenza? Allora? Vediamo. Beh, è semplice. Ma no, Rogna, la sai. Sì. La dichiarazione fu firmata in basso a destra. Siamo entrati nel nuovo anno, ma mica ci saremmo dimenticati della nostra rubrica di culto. Assolutamente no, anche perché non dimentichiamo che sempre si cresce imitando. Stiamo parlando della possibilità di diventare musicisti rock con la bocca. Sono sempre aperte le iscrizioni al 335-100-7777 ed è un piacere riprendere questa rubrica con una signorina all'ascolto. Dovrebbe chiamarsi Nora e ci chiama da Livorno. Pronto? Eccomi, ciao. Buona giornata, Nora. Ciao, buona giornata. Benvenuta. Ciao. Benvenuta ai microfoni di Pane, Burro e Rock and Roll. Prego, Ariel, stava dicendo? No, sentivo delle voci strane da Nora. Ah, c'è qualcuno insieme a lei? sentite la mia amica. Ciao. Ciao, benissimo. Un aiutante sì, di campo. Sì, sì. Si può? Nel regolamento è possibile? Ma non è contemplato, ma via, chiudiamo un occhio. Dora, tu come hanno fatto tutti, ti sei iscritta via SMS? Sì, sì, ti sei pentita di questa cosa? Un pochino forse. Nel senso che dopo è arrivato un po' l'imbarazzo, come esatto, dire. Esatto. Ma noi, come al solito, non imbarazzarti. Introduciamo queste telefonate per darvi la possibilità di rilassarvi, perché sappiamo che temete il provino. Insomma. Ah, esatto, che tensione, che tensione il provino. Vogliamo salutare anche la tua amica? Esatto. Sì. Come si chiama? Margaret, te la passo. Ciao Margaret. Ciao Margaret, benvenuta anche tu, provinante. Ma quindi vi valutiamo insieme? Esatto. Benissimo. Sì. È strano, da cosa vi è venuta l'idea di farlo in due? Dunque, perché Nora è particolarmente stonata. Ah, ok. E quindi ha chiesto un aiuto a me. Senti, ma dovrei essere un po' più intonata. Ma l'idea vostra è di fare entrambe lo stesso strumento? Certo. Abbiamo provato a fare due diversi. Ma? Però no, non c'è riuscita. Era quasi peggio. Esatto. Sì, noi saremo pronti per il provino. Dovete solo dirci che brano avete scelto e cosa volete fare. Allora, abbiamo scelto Dire Straits, Walk of Life. Perfetto. Il pezzo di pianola iniziale. Ah, ok, quindi siete alla tastiera. Alla tastiera, sì. Allora, è uno strumento impegnativo da rendere. In diretta sulle frequenze di Rock FM da Livorno, Margaret e Nora ci fanno Nora e Margaret la tastiera con la bocca di Walk of Life dei Dire Straits. Forza, ragazzi! Grazie. Partenza, via! Forza, ragazze, mantenete il feeling! Devo confessare che a tratti mi ricordava un'altra canzone, ma questo comunque vale come critica positiva. Sì, ma infatti a tratti ricordava anche un altro strumento, non so quale, ma va benissimo. Grazie, noi siete state bravissime. Ci appuntiamo che siete comunque le prime provinanti in coppia. Un duo eccezionale. Come chiedevamo a tutti, dovessimo formare una band di musicisti rock con la bocca, ci sarete? Sì, volentieri. Benissimo. Margaret e Nora, vi ringraziamo, siete state fenomenali. Alla prossima. Grazie. Vi faremo sapere. Grazie. Ciao. Buon pomeriggio. Ciao. Straits versione originale, dopo esserceli gustati dalle nostre amiche Nora e Margaret. Questa era Walk of Life, pochi minuti alle 9, quindi la chiusura di Pane, Burro e Rock and Roll, nella quale vi ricordo come al solito gli appuntamenti con l'Ariele in DJ set. Sabato sera, gli amici milanesi, vi invito all'Atomic Bar per un DJ set in compagnia dell'operaio del rock and roll. E invece l'appuntamentone con Pane, Burro e Rock and Roll, le patenti davvero rocker, il test attitudinale e Frick Antoni, Max De Rio, i Pay e quant'altro, sabato prossimo, sabato 12, all'Auditorium Flog di Firenze. Amici toscani, non perdetevi l'occasione di beccarvi, di meritarvi la vostra patente davvero rocker, mentre parte in sottofondo la nostra sigla, quindi è andata. Archiviamo questa puntata 153 di Pane, Burro e Rock and Roll. Pane, burro e rock and roll. Se vi siete persi qualcosa, ci trovate in internet. Colazione rock. RadioRockFM.com in streaming. Pane, burro e rock and roll. Oppure in podcast. O ancora MySpace. Pane, burro, /FM. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E ogni giorno alla mattina, a qualche secondo dalle 9, abbiamo l'appuntamento con Marco Garavelli. Buona giornata. Buona giornata a te. Oggi c'è grande solidarietà per la nostra radioascoltatrice che ha deciso di smettere di fumare oggi. Brava, bravissima. Oh, perfetto. Ha solo il mio consenso. Mentre non mi dimentico, caro Garavelli, con tanto di sciarpa. Ah, non mi dimentico che fa un freddo pisso. Ma va. Siamo vestiti anche noi belli. Caro Ariel, con tanto di giubbetto. Devo sgridare Spadino, che mi aveva promesso per l'intervento di oggi la musichetta delle previsioni del tempo. Non c'è. Non l'ha trovata, però. Però lunedì. Adesso mi ci metto io. Ma c'è anche domani, Garavelli. Domani sono virtuale. Arca. Con l'ologramma domani. E allora ci devi fare le previsioni anche del weekend. Sei preparato? E sono sulla giornata odierna. Dai, vai sulla giornata odierna. Scegli la Lombardia, la Romagna o la Liguria. Lombardia. Allora, cielo, come puoi vedere, sì, generalmente molto nuvoloso o coperto, con fenomeni diffusi che in mattinata, come puoi ben vedere, risulteranno prevalentemente nevosi su tutta la città e su tutta la pianura. Nella seconda parte della giornata, quindi pomeriggio e sera, i fenomeni subiranno un'ulteriore accentuazione con copiose nevicate ancora su tutti i settori pianeggianti. 20? Nevica o non nevica? È nevica, nevica, no? Ah, ok. 20? 20 prevalentemente orientali. Temperatura, come possiamo sentire, in lieve calo la massima. Garavelli, mi hai veramente stupito. Va bene. Ci risentiamo lunedì, allora. Ok. Buona giornata. Ciao. Sono di noi.